quando noi parliamo di invecchiamento viene immediato pensare, immaginare la pelle che si segna, e questa proprio è l'espressione più evidente del tempo che passa. Ma per la pelle c'è modo di rallentare questo processo, ci sono ad esempio le creme antirughe, no? Da usare ancora prima che si formino, e poi nel caso la medicina estetica. Se al nostro cervello vengono le rughe, noi non lo vediamo, ma sicuramente è preferibile avere la pelle un po' segnata e il cervello vispo che viceversa, almeno questo è quello che vorremmo, professor Albanese. Lo vediamo anche, nel senso che con le indagini di neuroimmagini che ci sono oggi lo vediamo se c'è un po' di atrofia, se il cervello è un po' raggrinzito. Ovviamente non lo vediamo con gli occhi, ma lo vediamo in maniera indiretta. Il paragone è calzante: il cervello, tutti i nostri organi invecchiano e la pelle è quello più visibile. La differenza forse principale è che, mentre nel caso della pelle le cause sono piuttosto esterne, per esempio se la pelle è esposta al sole ovviamente si consuma prima, invecchia prima, e quindi noi potremmo differenziare le parti esposte dalle parti non esposte, per il cervello è la sua attività interna che lo differenzia, quindi questi moduli, diciamo, cerebrali che lavorano continuamente in maniera diversa, di forme l'uno dall'altro, possono invecchiare in maniera diversa, e questa è un po' la caratteristica. Per questo le malattie degenerative colpiscono uno o più moduli del cervello in maniera selettiva.